samba. Samba alla fiorentina con lo stornando. Samba, samba, samba, samba. A tutte le bambine voglio cantar. Schiudi la tua finestra, poricciolona, scendi che ti porto alle cascine. Dalla carraia andremo a San Frediano, la Firenze svegliandosi dirà: sei fiorentino o sudamericano, quello che sono il cuore tuo lo sa. Samba, samba, samba, voglio ballare dalla felicità. La conga brasiliana, la rumba messicana, ormai son vecchi balli, ci voleva la novità. La samba di stagione somiglia un po' a Crescone, somiglia alla tarantella, ma che fa? E come è nato il tango in Argentina, è nata questa samba alla fiorentina. Samba, samba, samba, samba, samba alla fiorentina con lo stornando. Samba, samba, samba, samba, a tutte le bambine voglio cantar. Schiudi la tua finestra, poricciolona, scendi che ti porto alle cascine. Dalla carraia andremo a San Frediano, a Firenze svegliandosi dirà: sei fiorentino o sudamericano, quello che sono il cuore tuo lo sa. Samba, samba, samba, samba, voglio ballare dalla felicità. Samba, samba, voglio ballare dalla felicità. Oh samba, alla fiorentina.